Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Un attimo di sigla in più perché abbiamo preso un momento di collegamento tecnico con Luisa Cottifogli per l'edizione che è la quinta edizione di Mezzo scorre il fiume, percorsi fra musica e natura. Sarà ufficialmente dal 29 giugno al 25 agosto, scusate, quindi una parte estiva totale, ma ci sarà un'anticipazione per quanto riguarda mercoledì 1 maggio 2024. E per saperne di più e anche per ascoltare un po' di musica dal vivo, do la linea a Luisa Cottifogli che è qua in diretta telefonica con noi e intanto buongiorno. O padron di questa villa, siamo venuti a visitarvi e vogliamo salutarvi voi con tutta la famiglia. O padron di questa villa. E quindi buongiorno, grazie, buongiorno. Grazie per questo motivo, ma è una richiesta d'aiuto. Adesso io ho ascoltato attentamente perché volevo capire di mantenere un filo conduttore in questa nostra presentazione. È una richiesta, insomma. È il cantamaggio. Di che si tratta? Allora, è in pratica un inno alla gioia del fiorire primaverile, una questua tradizionale che veniva portata negli anni passati di villa in villa, appunto di aia in aia, di casa in casa, e di solito iniziava la notte, la sera del 30 aprile per poi finire l'1 maggio. E si festeggiava così l'inizio proprio del pieno della primavera, cioè il pieno della primavera, con la gente tutta piena di fiori, tutta allegra, così si danzava, si suonava, e questa cosa l'abbiamo portata avanti, questa questua, no? L'abbiamo portata avanti grazie a Giancarlo Battilani, che negli anni ha raccolto dei canti e dei balli staccati che altrimenti sarebbero stati persi, certo. Insomma. Tanto più che sono definiti maggiaioli. Sì, esatto, lo facciamo con i maggiaioli di Val Santerno, però con una novità, cioè quest'anno porteremo il 1 maggio, la mattina, porteremo la questua in pianura, quindi dalla Valle del Santerno scenderemo e andremo a Mordano, Bagnara di Romagna, Berricetto e Passogatto, cioè andando verso il Lughese, sì. Quindi dal Limolese verso il Lughese, perché in effetti in pianura questa cosa si è un po' persa, mentre in montagna, soprattutto al confine con la Toscana, questa è ancora una tradizione molto viva. Sappiamo che in Toscana proprio partecipano centinaia di cantori, di danzatori. Noi insomma vogliamo portarla avanti perché è una tradizione bellissima e tra l'altro ci sono proprio dei brani che appartengono al territorio. Certo, ed è fra Limolese e il Ravennate fino a arrivare. Sì, quest'anno lo portiamo, sì, giù in pianura. Come appunto però ha una tradizione dell'Appennino tosco-romagnolo, ecco. Esatto, esatto. Tu sai che questo è all'interno, è un'anteprima e quindi un'apertura in anteprima del festival In mezzo scorre il fiume, che inizierà a fine giugno, ma appunto in anteprima primaverile noi facciamo questo cantamaggio, tentiamo di fare questo cantamaggio perché io credo che quel giorno sia un po' nuvoloso, forse è prevista pioggia. Ma si farà lo stesso, hai detto? Sì, si farà lo stesso perché avremo anche un piano B, cioè dei luoghi al coperto, quindi a Mordano iniziamo alle 10, a Mordano saremo nel parco del donatore di sangue in centro, però lì adiacente ci sarà la sala polivalente, per cui qualsiasi cosa noi ci rifugiamo dentro. Certo. Poi alle 11:15, perché chiaramente non andiamo a piedi perché sennò ci metteremmo troppo tempo, una volta si andava a piedi, noi adesso ci spostiamo fra paese e paese, parcheggiamo la macchina e poi facciamo la nostra processione, insomma. Alle 11.15 saremo a Bagnara di Romagna in piazza Marconi, oppure ci ricovereremo all'interno dell'auditorium. E poi alle ore 12.30 arriveremo a Belricetto, sotto a Lugo, un paesino piccolino, una frazione, e lì saremo nel retro del bar, l'unico luogo, no, dove saremo al caffè Eli. E poi arriveremo a Passogatto, dove c'è questo splendido santuario della Beata Vergine di Loreto, piccolino ma è un gioiello, proprio un gioiello da visitare. E lì nei pressi di solito si fanno tutte le feste a ballo antiche, insomma sì. Di tradizione, certo. C'è una tradizione. E male che vada, insomma andremo all'interno di una sala che c'è lì. So. Sì. Quindi intanto, si fa. Si fa, pensiamo positivo. Dai, magari sì, avremo anche una giornata. Ma anche con l'ombrello qualche anno è stato fatto, anche con l'ombrello. Sì, con aprile e maggio ultimamente non danno molta soddisfazione, però ci crediamo, dai. No, l'anno scorso poi è stato un dramma, no? Perché sono iniziate lì proprio le piogge che hanno poi rovinato la Romagna, no? Quindi abbiamo dovuto saltarlo, volevamo rimandarlo. Per dei disastri. La situazione era ancora peggio. Certo. Allora, alcune informazioni logistiche per la partecipazione a questo cantamaggio di Val Santerno. Quindi ritrovi. Sì, i ritrovi sono appunto, come dicevo, alle 10 a Mordano, alle 11.15 okay. Bagnara di Romagna, 12.30 Belricetto, 13.30 Passogatto. Le persone possono seguirci in tutte le tappe, perché ogni tappa è un po' diversa, oppure scegliere la tappa più congeniale. E niente, gratuita naturalmente, è una festa, una questua. Mi ricorda anche un aspetto religioso. Ma infatti all'interno, adesso io ti ho cantato all'inizio Padrone di questa villa, ma dopo ci sono anche delle cose tipo, non so, in ogni luogo dove si arriva si dedica al santo del luogo. Okay. Tipo ad esempio quando arriviamo a Mordano, non so, si dedica la cosa a Sant'Ilario, per dire. No, Sant'Eustachio, me li confondo, perché dice, non so, col saluto noi ce ne andiamo, con la pace del Signore. Anche, e poi c'è Sant'Eustachio protettore, anche lui lo ringraziamo, col saluto ce ne andiamo. Cioè, sacro e profano. Salutano le persone, il santo protettore. È veramente la prima volta che ho sentito queste cose, mi sono commossa, perché c'è proprio tutta l'ospitalità, no? Anche una sorta di devozione, no? certo. Un'ospitalità che diventa anche motivo di devozione e ringraziamento. Sì, il primo maggio dalle ore 10, anticipando quelli che saranno i percorsi fra musica e natura giunti alla quinta edizione, in mezzo scorre il fiume. Ovviamente ci sentiremo per dare presentazione anche alla quinta edizione di In mezzo scorre il fiume. Intanto abbiamo portato questa anteprima con il cantamaggio di Val Santerno nel last minute odierno. Io ti ringrazio tantissimo anche per il contributo canoro dal vivo che hai dato per anticipare e per ricordare i contenuti che avranno queste passeggiate, questi incontri. Sì, ci saranno poi tutti i suonatori, i danzatori, le persone possono vedere come si danzava una volta proprio, no? Sì, vedo cantore e danzatore accompagnati anche da Antonio Stragapè della chitarra, che è un musicista insomma che già abbiamo conosciuto, Giancarlo Battilani, violino voce, e anche per quanto riguarda l'aspetto danzereccio, e Massimo Oppi al banjo. E tu? Hai dato e Maria Del Rico alla fisarmonica. Ok, e io ti ringrazio tantissimo. Cioè, chiaramente sarò in mezzo ai maggiaioli, no? Ok. E canterò con loro. Ok, ok. Molto, molto bene. Noi abbiamo terminato questo nostro last minute di anticipazione. Grazie a Luisa Cottifogli di In mezzo scorre il fiume, percorsi fra musica e natura, giunti alla quinta edizione. Ci sentiamo poi per quello che sarà dal 29 giugno al 25 agosto. Grazie. Perfetto, grazie. Ciao. Ciao. We're waiting for the last to filter down to the youth, and they see every time they discover I'm laughing. When I see the first world crying for the third, well, they're dying. And not even first world tears can fade your color. Not even first world tears can fade your color. Ay, ay. First world tears, first world tears, first world tears, first world tears, first world tears, first world tears. There's a curious kind of subconscious, subconscious running free, running free inside of me. Da quando vi è in mezzo scorre il fiume, il Breakfast Club segue questi appuntamenti in una zona molto particolare che è l'Appennino Tosco-Romagnolo. Quest'anno sarà dal 29 giugno al 25 agosto, ovviamente 2024, con Luisa Cottifogli per quanto riguarda ovviamente il contributo artistico e l'organizzazione. E da qualche edizione ha portato anche l'aspetto canoro in diretta telefonica per darne anticipazione. Ha ringraziato, tra l'altro, grazie per l'ascolto e per avermi fatto cantare. Beh, Luisa, sarà anche per la presentazione più estesa. Ti aspettiamo per un piccolo contributo di anticipazione alla rassegna In mezzo scorre il fiume. Tra pochissimo ancora qualche nota di Kezia Jones, poi pubblicità, partiamo con la rassegna culturale dei magazine del lunedì, lunedì 29 aprile 2024. Scoot up, bop, and bobble, ding, down. Scubble, scubble, scubble, dee, down. Scoot up, bop, and bobble, ding, down. Stop, stop, stop, and bobble, ding, down. Subconscious, damn, damn. Scoot up, bop, and bobble, ding, down. Scoot up, bop, and bobble, ding, down. Scoot up, bop, and bobble, ding, down. Scoot up, stupid, stupid, stupid, dee, down. Subconscious,